24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, le 7:21 minuti, siamo qui in diretta fino alle 9 anche oggi con il nostro 24 mattino, il nostro Peter Bescapè in regia con la penna nera che è scomparsa, quella d'Alpino, non lo so, è da un po' di tempo che non la vedo. Di cosa parleremo oggi? Beh, ieri ne abbiamo citato in rassegna stampa degli ordini professionali. So che ci ascoltano tantissimi: avvocati, medici, psicologi, architetti, ingegneri, giornalisti, geologi. Insomma, sono 28, devo continuare. Sono considerati in un nuovo libro uscito da poco a chiare lettere i veri intoccabili, la vera casta di milioni di italiani. Ogni volta che si toccano gli ordini o si prova a toccare gli ordini professionali si prende la scossa, così. E allora di questo parleremo oggi con l'autore del libro, con il presidente di ordini, dalle 8:20. Intanto iniziamo da cosa? Dalla lettura dei quotidiani in edicola. Mercoledì 23 novembre, intanto le scelte delle aperture dei quotidiani. C'è chi si butta sulla vicenda Monti in Unione Europea. Monti all'Unione Europea, ora riforme incisive, così apre il Sole 24 Ore. Praticamente l'identico titolo sul Corriere della Sera: Monti, ora riforme incisive. Per Repubblica, Monti all'Unione Europea, l'Italia ce la farà. E il Messaggero: Monti rassicura l'Europa. Per il Giornale, Monti ride, la borsa no. Poi chi sceglie Finmeccanica, la stampa: Finmeccanica interviene Monti. E il Fatto Quotidiano: mazzette, a ognuno la sua, Monti dice basta. La vicenda invece immigrati: per Libero, Napolitano adotta i clandestini, mentre il Manifesto: figli d'Italia. Per l'Unità: cittadini italiani, ci sono due foto in entrambi i casi di bambini stranieri. Italiano, chi nasce qui, è anche il titolo di Avvenire in prima pagina. Allora, io voglio partire però da articoli che riguardano due vicende giudiziarie. La prima risale al G8 di Genova. Ogni tanto c'è una sentenza, in questo caso è una sentenza che conferma il primo grado, ribalta l'appello e in via definitiva assolve De Gennaro, allora capo della polizia, oggi capo dei servizi segreti in Italia. G8, assolti De Gennaro e Mortola, Spartaco Mortola. La Cassazione annulla le condanne per gli ex capi della polizia e della Digos, i fatti non sussistono. È Matteo Indice che ne scrive sul Secolo XIX, leggo il giornale che vi dedica più spazio per motivi di vicinanza anche dei fatti, insomma, che avvennero a Genova. Alle 8 di sera, in nome del popolo italiano, i giudici della Cassazione cancellano il sospetto che l'ex capo della polizia abbia depistato il processo sul massacro alla scuola Diaz avvenuto dopo il G8 del 2001. Praticamente qual era l'accusa nei confronti di Gianni De Gennaro? L'accusa era quella che stava in una telefonata intercettata dell'ex questore Colucci di Genova, nella quale Colucci diceva: mi ha ordinato il capo di fare delle modifiche, in pratica, della mia versione. E in effetti lui fece delle modifiche quando testimoniò. L'accusa, insomma, che De Gennaro avesse fatto delle pressioni sull'ex questore di Genova affinché modificasse la propria versione in tribunale su un punto preciso, vale a dire questo: chi ordinò di contattare l'addetto stampa Francesco Sgalla per farlo andare fuori dalla scuola Diaz. Interrogato in un primo tempo, Colucci spiegò senza mezzi termini che l'idea dell'addetto stampa fu di De Gennaro, ma poi in tribunale, durante il processo, cambiò versione. E nel frattempo fu intercettata questa telefonata nella quale l'ex questore diceva a Spartaco Mortola che il capo gli aveva chiesto di fare marcia indietro sulla questione della stampa. Questo rimane agli atti secondo il Secolo XIX, ma rimane agli atti anche l'assoluzione. Tra l'altro Francesco Colucci viene anche intervistato: non ci fu nessun triangolo, lo ho sempre ribadito, per depistare le indagini sulla Diaz, men che meno un piano preordinato tra i funzionari di polizia. Non sono stato istigato a mentire, così certifica oggi la Cassazione, non si capisce perché avrei dovuto dire il falso e a favore di chi. Insomma, il dato di fatto, che ne parlano tutti i giornali, anche il Corriere: assolto De Gennaro, non istigò al falso nel G8 di Genova. Assolto anche Spartaco Mortola, colui che fu intercettato mentre parlava con l'ex questore Colucci, ex questore, che tra l'altro dice: vi svelerò un particolare, per questa storia non avrei mai dovuto neanche essere intercettato e dunque il procedimento non sarebbe mai dovuto cominciare. Un'altra vicenda giudiziaria che trovate invece su tutti i giornali: si è aperto il processo d'appello per il delitto di Garlasco, l'unico imputato è Alberto Stasi per l'uccisione della allora fidanzata Chiara Poggi. L'accusa insiste, è lui il colpevole, è stato assolto in primo grado, 30 anni, questa è la richiesta del procuratore generale. Tra l'altro c'è il mistero di un SMS che in qualche modo è scomparso e ora è ricomparso, ne parlano tutti i giornali. Sul Corriere della Sera ne scrive Erika Camasso: di che cosa? Di questo SMS che 30 ore prima del delitto Alberto Stasi in piena notte ha mandato a un amico che era al mare. Registrato sulla rubrica sotto il nome di Anacleto. Ebbene, questo SMS che cosa contiene? Non si saprà mai, perché sia Alberto Stasi sia la persona che l'ha ricevuto lo hanno cancellato dalla memoria prima che venissero sequestrati i cellulari. Però, secondo l'accusa, questo indica un segnale di emergenza, che in piena notte Alberto Stasi, poco prima, 30 ore prima del delitto, abbia voluto segnalare un'emergenza all'amico. E tra l'altro Alberto Stasi non ha mai parlato di questo SMS quando è stato interrogato nelle varie situazioni. Insomma, per l'accusa Alberto è colpevole, non ci sono altre piste. Il problema è che fa sapere anche Fabio Poletti sulla Stampa, pagina 23, è poco presumibile che queste cose possano reggere in tribunale, visto che la stessa accusa dice: allo stato delle indagini non abbiamo trovato un vero movente per questo delitto. Dunque Alberto Stasi per l'accusa resta l'unico assassino possibile, perché le indagini alternative non hanno portato a nulla. Insomma, ecco, non delle prove schiaccianti, ma come dire, non ci sono altre piste e dunque rimane in piedi solo questa. 24 mattino. 7:34 minuti. Allora, Mario Monti è in Europa in quella che qualcuno ha ribattezzato la missione Credibilità. Che cosa ha detto? Beh, ha incontrato Barroso, ha parlato di misure più incisive, ne scrive Gerardo Pelosi a pagina 3 per il Sole 24 Ore. Mario, qui praticamente sei a casa tua, così lo ha accolto José Manuel Barroso insieme a Herman Van Rompuy, cioè il presidente della Commissione del Consiglio dell'Unione Europea. E insomma, Gerardo Pelosi racconta che non è solo un'affettuosa rimpatriata, cioè qui proprio Mario Monti si trova davvero a casa sua in Europa, nell'Europa in cui crede, nell'Europa in cui ha fatto il commissario. Insomma, ovviamente continua, ha promesso riforme più incisive. C'è stato anche questo piccolo giallo nel quale è incappato Mario Monti quando ha parlato del pareggio di bilancio del 2013 come di un qualcosa che sì, insomma, non ha detto lo perseguiremo, e allora si è creato questo piccolo giallo, tanto che Mario Monti ha dovuto poi fare una precisazione all'ANSA, l'agenzia di stampa, dicendo: no, perseguiremo l'obiettivo e confermo per il 2013 il pareggio di bilancio. Insomma, una qualche incertezza che poi è stata rimediata con una dichiarazione ufficiale. E poi anche in questo viaggio continua, insomma, un po' questi articoli tra la cronaca e la agiografia di San Mario Monti, no? Che raccontano, per esempio oggi vince Marco Galluzzo a pagina 3 del Corriere della Sera. Mario, anche qui inizia così: sei praticamente a casa tua, e allora tutti spendono elogi sulla persona, nuovo premier, sullo studioso, sull'accademico, sull'uomo di cui rimarcano il talento, la visione. Un clima molto diverso da quello che si respirava fino a qualche settimana fa. Nonostante l'aggravarsi della crisi, si registra un'enorme apertura di credito delle istituzioni comunitarie. Barroso ricorda che Monti gli ha fatto da super consulente. Insomma, si vede un po' la melassa che si sprigiona dall'articolo. Monti con le sue parole segna una discontinuità perfino nella scelta della lingua, l'inglese al posto dell'italiano per le dichiarazioni alla stampa. In questa cornice cambia anche l'atteggiamento dello staff del premier, tutti con un clima bipartisan più rilassati, si rilasciano con dei sorrisi, una fiducia ben riposta, sorrisi anche da parte delle istituzioni che lo incontrano. Insomma, ecco, tutto un articolo per raccontare effettivamente che l'accoglienza è stata molto molto positiva. E poi c'è anche questa vicenda rimarcata da tutti i giornali. Repubblica ci fa un riquadro a pagina 6, La Stampa un ritaglio a pagina 3. Monti è arrivato a Ciampino, era pronto un Airbus 330 per portarlo in Europa. Ha detto, ha sbottato, ma insomma è troppo grosso questo aereo, noi siamo solo in 12, al che l'aeronautica e gli alti ufficiali si sono mossi, hanno trovato un più sobrio, questa è la parola sdoganata, ormai la trovate usata centinaia di volte, oggi dalla stampa, il premier sceglie un più sobrio Falcon 900 per andare a Bruxelles. Sulla sobrietà punta anche moltissimo Filippo Ceccarelli a pagina 11 di Repubblica, in cui scrive in un articolo come va in pensione il modello Caesar Palace, Palazzo Chigi, Monti cambia la sala stampa, quella sala stampa da dove Berlusconi faceva le conferenze, c'era anche dietro il tiepolo originale che verrà subito spostato in nome in onore alla sobrietà. Verrà tolto il tiepolo originale che campeggia ora nella sala stampa di Palazzo Chigi. Insomma, i giornali sono anche un pochino, devo dire, davvero disperati alla ricerca di qualche dichiarazione, i ministri che non dicono nulla. Il ministro per i rapporti col Parlamento Giarda ieri ha detto abbiate pietà di noi, dobbiamo studiare, non vi accanite per il momento. Ieri si è presentata e ha vinto anche in simpatia il neo ministro agli interni, il prefetto Anna Maria Cancellieri, che si è presentata, ha detto delle cose importanti, la mafia è la priorità, la questione immigrati sono la priorità, il dossier Black Bloc lo studierò, sull'immigrazione sono preparata, su alcune cose e in maniera molto onesta, quelle che non conosceva, non so, l'ultimo pacchetto sicurezza, ha detto non so di cosa stiamo parlando e quindi davvero non lo so, mi informerò, cioè nel senso laddove non sapeva delle cose non ha risposto in politichese a dire faremo, facciamo, cioè, ha detto alcune cose le conosco bene, alcune no, mi informerò, studierò tutto, eccetera. Poi ha detto voglio una macchina italiana, la vorrei veramente la macchina italiana, ma ormai è stato fatto il bando, c'è solo una vecchia, credo, Lancia Tesis da 150.000 chilometri, dunque è un po' un problema. E poi ha parlato anche un po' di lei, si è fatta conoscere, ha detto che sono pa Roma, cioè tifa per la Roma, quindi ha detto Totti, io sono d'accordo con tutto quello che dice Totti. E poi quando mi hanno chiamato a Parma e mi hanno detto che dovevo diventare ministro, un figlio ci credeva, un altro invece no, fortunatamente il giorno prima ero a teatro con un bel tailleur, altrimenti per una cicciona come me sarebbe stato difficile presentarsi in modo adeguato. Il neo ministro agli interni Anna Maria Cancellieri. Piccolo problema invece per il neo ministro alla pubblica istruzione Francesco Profumo, ne scrive Il Secolo XIX a pagina 5, perché il titolo è questo: lo statuto è da rifare, il ministro boccia se stesso. È una vicenda che racconta Francesco Margiocco, che riguarda il ministero dell'istruzione presieduto appunto da Profumo e l'Università di Torino, di cui Profumo è il rettore, ovviamente lascerà l'incarico. Francesco Profumo si è appena insediato in Viale Trastevere, ha già un bel dilemma, quello di chi si trova al tempo stesso nei panni del censore e del censurato. È infatti partita una nota ministeriale firmata dal direttore generale del Ministero che chiede al Politecnico di Torino di riscrivere il nuovo statuto in un punto. La cosa particolare, insomma, è che il dicastero retto da Profumo ha spedito questa nota ministeriale a Profumo stesso, perché appunto fino a pochi giorni fa l'attuale ministro era rettore del Politecnico e nella sua nuova veste dovrà decidere da ministero se costringere i colleghi dell'Ateneo, di cui è stato rettore, a cambiare lo statuto che lui stesso ha approvato. Insomma, una vicenda un pochino complicata ma anche curiosa per il neo ministro. Al di là delle battute sull'accoglienza in Europa, i giornali ancora sono pieni di quello che sarebbero le linee programmatiche del governo Monti. Per il Corriere della Sera il governo accelera, c'è una manovra da 15 miliardi in arrivo, sarebbe la manovra quater in questo 2011, davvero travagliato per i conti italiani, mentre il Sole 24 Ore con Davide Colombo e Marco Rogari a pagina 11 racconta di una novità in vista per le pensioni. Filtro per le invalidità, questo è il titolo dell'articolo, non solo contributivo per tutti, superamento dell'anzianità col meccanismo flessibile 63-70 anni, un nuovo intervento sulla previdenza italiana investirà anche le invalidità e la reversibilità. Come? Beh, le ipotesi sono queste: criteri maggiormente selettivi per l'attribuzione delle invalidità, con la possibilità anche di ridurre gli assegni nei confronti di chi gode già di altri trattamenti previdenziali e assistenziali. E invece, per quel che riguarda la reversibilità, visto anche una novità frutto di una vittoria parlamentare della Lega per il 2012, da gennaio scatta infatti la stretta sulla reversibilità per i casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto con soggetti di età superiore a 70 anni e nel caso in cui la differenza dei coniugi sia superiore a 20 anni di età. In questi casi scatterà una stretta sulla reversibilità delle pensioni. Comunque tutti i dettagli li trovate a pagina 11 del Sole 24 Ore. Ovviamente ha fatto molto discutere, molti giornali vi aprono, la vicenda dell'uscita del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che sull'immigrazione ha detto: è una follia pensare che i bimbi nati in Italia da stranieri non siano italiani, cioè quelle persone che, quei bambini, un milione sono stati identificati come numero, che nascono, crescono, vanno a scuola, sognano, hanno progetti, studiano, frequentano i loro compagni, i loro amici italiani, in tutto e per tutto crescono nella cultura italiana, nelle tradizioni italiane, nella società italiana, parlano italiano, sognano in italiano e non sono italiani. Insomma, questa idea di fare una proposta perché prevalga lo ius soli, come si dice in latino, non l'attuale ius sanguinis, cioè il diritto del sangue, la cittadinanza tramandata, diciamo così, attraverso il sangue, attraverso l'appartenenza, la nazionalità dei propri genitori. Napolitano, il nodo immigrati, cittadino, chi nasce in Italia. Beh, questo dà modo a un ministro, un neoministro finalmente, a fare a qualche intervista, il neoministro della cooperazione e integrazione Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, intervistato sia da Avvenire a pagina 4 sia da Repubblica a pagina 3. Dice: è un intervento che condivido, il presidente Napolitano ha toccato un punto nodale, dice ad Avvenire il ministro Riccardi. L'integrazione deve cominciare proprio dai bambini. Quello di Napolitano è stato un appello chiaro e molto condivisibile, così anche su Repubblica. Per la verità ci sono alcuni a favore, per esempio una proposta del genere fu lanciata anche dal presidente della Camera Fini. L'onorevole Suad Sbai, che per un periodo è stata finiana nel Futuro e Libertà, ora è tornata nel Popolo della Libertà, intervistata dal Quotidiano Nazionale, dice: beh, io da 3 anni ho fatto questa proposta, cioè di puntare allo ius soli, mentre vedo che ora si precipitano a presentare proposte di legge in merito dei deputati, anzi senatori, che non appena Giorgio Napolitano hanno parlato di questo si sono mossi. Io sono d'accordo non del tutto su ciò che dice Napolitano, anche perché non tutti gli immigrati vogliono diventare cittadini italiani, ma certo la seconda generazione di immigrati, quelli che vivono sul territorio nazionale, ormai sono italiani, studiano in Italia, sognano, pensano, mangiano, muoiono come italiani, sarebbe opportuno dare la cittadinanza a chi ha concluso i cicli scolastici in Italia, vuole restare a vivere in Italia perché si sente italiano. Ovviamente tuona su questo la Lega, tanto che, e da qui ripartiremo dopo il traffico, c'è l'idea quasi di un piano politico. Qualche giornale fa capire che, insomma, questa dichiarazione di Napolitano, messa insieme ad altre dichiarazioni che vedremo tra poco, fanno pensare a un qualcosa di un po' più studiato. Allora, qual è il giallo, secondo qualche giornale, che c'è dietro questa dichiarazione di Napolitano? Non tanto il giallo, oppure i giornali mettono insieme alcune cose. Primo provvedimento del Consiglio dei Ministri è stato Roma Capitale e la Lega ha tuonato. prima intervista del ministro all'agricoltura qualche giorno fa ha detto gli allevatori del latte paghino le quote latte, è un tema molto vicino alla Lega. Ora questa di vicenda di appunto dell'immigrazione, e alla Lega proprio non va giù. Insomma, l'idea di alcuni giornali è, si vuole, il giornale la mette così, dalle quote latte a Roma Capitale stanno smontando il sistema Lega. E così guardate anche però il Corriere, il Colle anticipa la mossa del Parlamento padano. Siccome Bossi, la Lega hanno convocato il Parlamento padano il 4 dicembre, vogliamo riaprire il Parlamento della Padania e si pensa sicuramente avrebbero puntato molto sugli attacchi ai temi dell'immigrazione eccetera, tanto care alla Lega, ecco la mossa anticipatrice di Napolitano. Per Maurizio Belpietro, direttore di Libero, nel suo fondo di prima pagina, il presidente ha un piano, questo è solo l'inizio, i diritti degli stranieri non c'entrano con l'emergenza, dietro la sostituzione del cavaliere non c'è l'economia ma un progetto politico. Per Belpietro, insomma, è un intervento in maniera molto chiara per smontare il sistema Lega. La Padania reagisce così, se ne fregano della crisi, danno il voto agli immigrati. La Padania la vede così, cioè l'idea di voler dare la cittadinanza e dunque il voto agli immigrati, questo per far vincere la sinistra, secondo il quotidiano della Lega. E Berlusconi? Ogni giorno vi faccio questa domanda. Berlusconi oggi lo troverete ripreso con una foto mentre beve un caffè in un bar di Milano, dietro il Tribunale di Milano, dove ieri senza la clac, i sostenitori, i supporter che c'erano quando era premier, nelle ultime occasioni, quando anche ricordate ci fu tutta la polemica per i gazebo fuori dal tribunale, c'era la campagna elettorale per il sindaco di Milano, stavolta invece da solo, con la sua scorta ovviamente, si è presentato al processo, secondo lui alla 2587esima udienza, se Berlusconi dice contro di me, se i miei avvocati non hanno sbagliato i calcoli. E scrive Paolo Colonnello della Stampa, così solo soletto, circondato dalla scorta, il cavaliere prima si prende un caffè in un bar vicino al tribunale perché avevo il mal di stomaco, poi si siede compunto tra brevi sonnellini, qualche gesto di stizza nell'aula della prima sezione penale per sorbirsi insieme ai suoi avvocati un'udienza un po' surreale del processo Mediaset. 3 ore per assistere alla testimonianza da Los Angeles di tale Mark Kenner, ex presidente della distribuzione internazionale della Century Fox TV, che faticosamente tradotto racconta di strani sovrapprezzi applicati dalle società offshore del Biscione sui diritti televisivi. Comunque Berlusconi si è soprattutto lasciato andare una battuta sull'altro processo più importante, quello del caso Ruby, ha detto: le mie ospiti a cene galanti sono vittime dei magistrati, la colpa è loro, i magistrati hanno sulla coscienza la responsabilità grave di aver rovinato la reputazione di queste mie ospiti disonorandole su dei fatti che non hanno nessun contenuto illecito. Insomma, la colpa, e questo titolo, le mie ospiti sono vittime dei PM, è un po' il titolo che trovate dappertutto. C'è molto di vicende giudiziarie oggi sui giornali, continua anche la vicenda Finmeccanica con Mario Monti che pare voler fare una pressione per una soluzione rapida, così l'ha definita. D'altronde è la vicenda che coinvolge anche come indagato Pierfrancesco Guarguaglini, il numero uno di Finmeccanica, con l'amministratore delegato della stessa società Giuseppe Orsi, che fanno sapere tutti i giornali, insomma, gli ha chiesto in qualche modo una sorta di passo indietro. Guarguaglini però tiene duro, non vuole e nega le dimissioni. Oggi il Sole 24 Ore ne scrive a pagina 17, c'è anche questo giallo, meglio, oggi uscito su tutti i giornali, che Tremonti quando era ministro fu sentito in gran segreto a Milano dai PM. Perché? Perché la circostanza era, se avesse mai incontrato nella sua vita il consulente di Finmeccanica che è rimasto coinvolto in questa inchiesta, Lorenzo Cola, una cosa che lui aveva negato. In questo interrogatorio invece dice: sì, lo vidi una volta quando c'era il governo Prodi, nello studio del senatore Giulio Andreotti a Palazzo Giustiniani per un colloquio sull'Europa. Ho avuto occasione in quella circostanza di incontrare il signor Cola, fattami dal Cola l'ipotesi di un viaggio nel negli Stati Uniti, ho cortesemente declinato avendo in quel paese altre opportunità di incontro. Questa è la dichiarazione di Tremonti, caso Finmeccanica Tremonti sentito dai PM, questo è anche il titolo del giornale a pagina 7. Noi ci dobbiamo fermare, ricordo che parleremo di ordini professionali tra poco e su questo segnalo anche un'intervista al ministro alla salute, neo ministro alla salute Balduzzi, che parla della questione dei medici. Avremo anche il presidente dell'ordine dei medici alle 8:30 sulla vicenda di Groupon che offre visite scontate, con la polemica dell'ordine dei medici che dice chi controlla la qualità di medici che offrono prestazioni scontate. Il neo ministro Balduzzi dice la sanità low cost offerta su internet non c'è nulla di male, basta che rispetti le regole, e per far rispettare queste regole ci vuole appunto l'ordine dei medici. Ne parla a pagina 5 del quotidiano nazionale. Mentre, che dire, dobbiamo fare i complimenti al Napoli per il calcio, stra Napoli, il titolo della Gazzetta, ha battuto il Manchester City, e anche l'Inter che pareggiando ha passato il turno. Ma si sa, come al solito, la Champions League si gioca di mercoledì, quella che conta. Stasera c'è Milan-Barcellona. 24 mattino. Eccoci qua, cari ascoltatori, sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi parliamo di ordini professionali. Già quando io dico la parola so che ci stanno ascoltando tanti colleghi, giornalisti, tanti medici, tanti infermieri, geologi, avvocati, commercialisti, notai. Insomma, sono 28 gli ordini professionali in Italia, sono circa 2 milioni i professionisti riconosciuti che si vengono rappresentati da un ordine professionale. È uscito un libro edito da Chiare Lettere, il cui titolo è inequivocabile: I veri intoccabili. I veri intoccabili sareste voi, noi anche, io giornalista, insomma, l'ha scritto un collega che è qui con noi, Franco Stefanoni, che saluto. Buongiorno Franco. Buongiorno a voi. Allora, i veri intoccabili, perché sono così intoccabili? Diciamo subito una cosa, Franco Stefanoni non è per l'abolizione degli ordini professionali, vero? No, non sono per l'abolizione totale degli ordini, credo che in certi casi sia giustificato la presenza di un ente che tuteli i cittadini dalle possibili scorrettezze degli iscritti. E sono alcuni casi dove l'interesse pubblico, come dire, si sente ed è evidente. Perché però sono i veri intoccabili? Già il titolo è questo, no? Sono i veri intoccabili in che cosa? Ogni volta che si vuole fare le riforme, io all'inizio dicevo, presentando il tema in apertura alle 7:20, dice si tocca la scossa, chiunque abbia voluto o abbia provato a toccare gli ordini ha preso la scossa. In effetti è così, nel tempo più volte a livello politico si è cercato di modificare qualcosa, gli ordini hanno cercato di proporre soluzioni a loro favorevoli, avversari degli ordini hanno cercato di sostenere tesi opposte, ma ogni volta nel tempo tutto si è sempre arenato. C'è una grande riforma degli ordini, una riforma che rivedesse la struttura, i meccanismi principali, qualcosa di più complessivo. Questa non è mai passata. Non è mai passata. La cosa più incisiva del libro è questa: gli ordini sono nati per tutelare tutti noi consumatori, no? Perché danno delle garanzie chi appartiene a quest'ordine, e invece si sono progressivamente trasformati in che cosa? In una soprattutto forma di autotutela degli stessi iscritti? Questa è l'accusa più importante, sì, che si può fare. Questo è accaduto, accade, non è sempre vero, ma spesso succede che questi enti pubblici, ricordiamolo che sono enti pubblici non economici, finiscono per tutelare chi ne fa parte, più che il cittadino che in realtà è il destinatario vero della loro esistenza. Lo si vede per esempio nel caso del rispetto della deontologia, quindi la disciplina, come viene gestita la disciplina. Subito infatti un ascoltatore ci scrive, io ricordo gli sms al 349-238-6666, nessuno viene mai radiato, scritto così in maiuscolo. Questo non è sempre vero. Non è così vero, però sono... È vero che sono poche le radiazioni, perché per arrivare a una decisione così drastica si passa per una serie di passaggi che portano via anni, si può ricorrere fino alla Cassazione, sappiamo che allora come dire, la certezza della sanzione insomma, viene. Quindi sulla deontologia professionale c'è molto su cui si potrebbe discutere. Beh, è un tema sensibile. Sì. Ovviamente hanno anche un grande appoggio gli ordini professionali, perché hanno quelle che si chiamano, già la parola in Italia suona come una cosa negativa, in America non lo sarebbe, in Italia sì, le lobby parlamentari. Vi ricordate di recente, cari ascoltatori, quando si è provato a cambiare qualcosa sull'ordine degli avvocati o comunque sugli ordini, la lobby parlamentare, quanti sono gli avvocati? Tanti sono, dunque, in Parlamento, non sono tanti, perché la percentuale, diciamo così, sul numero complessivo, cioè intorno al 40% di parlamentari sono avvocati. No, sono tra avvocati, diciamo, questa è la media, il 40% tra avvocati, giornalisti, medici. Ah, ok, quindi rappresentanti dell'ordine. Sì, è, diciamo così, diciamo, no, appartenenti, iscritti a qualche albo. E quindi, ovviamente, visto che le leggi devono passare di lì, fanno muro, no? Sì, fanno melina, diciamo così, fanno melina. Bipartisan in questo caso. Sì, l'esistenza di un trasversale informale partito dei professionisti, benché mai, come dire, ufficializzato, mai dimostrato, no? È un po' una di quelle cose che si dice spesso, perché accade che nonostante ci siano stati molti lavori di commissione, infinite audizioni, tanti documenti, decenni di discussioni, alla fine tanto lavoro non apporta niente. Allora, leggo dall'introduzione del libro di Franco Stefanoni, di cui poi parleremo, tra poco ci raggiungeranno anche due rappresentanti di altrettanti ordini. Gli ordini o collegi di categoria si presentano come paladini del consumatore, sono enti pubblici il cui scopo dichiarato è proteggere i cittadini dalle cosiddette asimmetrie informative. In realtà si tratta di elite che proteggono soprattutto i propri iscritti. Chi li tocca muore, nessuno può interferire nel loro interesse e nessuno può scalfire il loro potere. Prima di andare in pubblicità, forse c'è uno che questi poteri li vuole scalfire, Mario Monti. Ieri si parlava, Franco, del fatto che Mario Monti era commissario europeo quando Bersani fece le famose lenzuolate sugli ordini, no? Sì, Monti è l'ispiratore in quegli anni di ciò che poi fece Bersani, ma anche dell'attività dell'antitrust italiana. Monti col suo agire in quegli anni da commissario ha ispirato questi comportamenti. Da qui è facile pensare che qualche cosa potrebbe accadere, potrebbe anche in futuro. Anche sì. Perché allora c'era Catricalà, che era collaboratore di Monti, e guarda caso Catricalà è stato chiamato Catricalà, al governo Monti. Catricalà, esatto. Quindi ha lasciato l'antitrust, da dove ha tante volte bacchettato gli ordini. Oggi lavora con Monti e quindi Si può presumere che qualcosa voglia fare su questo campo. Staremo a vedere. Intanto, io ho detto ieri scherzando, se Monti riuscirà a fare qualcosa sulle province, facciamo San Mario Monti, visto che le province sono intoccabili. Chissà, forse questo può valere anche per quel che riguarda gli ordini professionali. Di questo discutiamo, di questo libro, I veri intoccabili di ordini professionali. Lo facciamo in maniera tranquilla. Dopo la pubblicità ci raggiungeranno anche il presidente dell'Ordine dei Medici e un rappresentante, il consigliere del Consiglio Nazionale Forense, vale a dire avvocati, tra poco dopo pubblicità e meteo. Eccoci qua, allora, sono le 8:34 minuti, vogliamo parlare oggi di questo libro, I veri intoccabili, scritto da Franco Stefanoni, che è un collega del Mondo, ha scritto questo libro edito da Chiare Lettere, qui nei nostri studi. I veri intoccabili, la tesi di questo libro, sono i rappresentanti, tutte le persone, gli ordini professionali, insomma, e quindi ordini professionali 28 in Italia, rappresentano circa 2 milioni di professionisti, nati per la tutela dei consumatori, di tutti noi italiani, e secondo l'accusa di questo libro sono progressivamente trasformati in una sorta di organismi di autotutela dei propri iscritti come primo obiettivo, con ovviamente ostracismi, per esempio quando si tratta di riforme, di liberalizzarli, di tentativi di liberalizzarli. Come precisato Franco Stefanoni, non è per l'abolizione degli ordini, ma magari per una riforma in senso più liberale. Ci hanno raggiunto, e li voglio salutare, l'avvocato Andrea Mascherini, che è consigliere segretario del Consiglio Nazionale Forense. Buongiorno avvocato Mascherin. Buongiorno a voi. Saluto anche Amedeo Bianco, presiede l'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri, insomma l'Ordine dei Medici, quello che ha maggior numero di iscritti. Presidente Bianco, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, le accuse sono queste sul tavolo. Avvocato Mascherini, intanto, abbiamo detto che la lobby dei parlamentari avvocati è tra le più agguerrite contro le riforme. Ma Guardi, innanzitutto parliamo di accuse, quindi mi trovo a mio agio, no? Visto che sono avvocato. Certo, e si sa difendere. A difendere, ed è importante, no? Finché ci sono accuse ci devono essere gli avvocati a difendere, perché l'avvocato nasce per questo, per difendere il cittadino dai poteri forti, meno forti, e quindi questo è un punto di partenza. Poi l'altro passaggio è che l'avvocato deve fare la propria professione bene, con correttezza e onestà, come ogni professionista deve fare la propria, ogni lavoratore deve fare la propria. Terzo punto che vorrei fare è che naturalmente in tutte le categorie, nessuna esclusa, c'è chi lavora al massimo bene, con correttezza, e normalmente per tutte le categorie, magistrati, avvocati, giornalisti, medici, la gran parte dei professionisti e degli iscritti lavora con correttezza. Naturalmente poi sulle prime pagine dei giornali, voi lo sapete molto meglio di me, vanno le patologie, no? Sì. Quindi vanno i casi clamorosi, i casi negativi. Che vengono trattate come? Per esempio Stefanoni dice che uno dei punti è la uno dei punti nodali e negativi degli ordini è la deontologia professionale, insomma, Guardi, io devo dire questo, va fatto un chiarimento sul punto. La deontologia non è altro che un insieme di regole etiche comportamentali per i singoli professionisti ed è diverso naturalmente dalla legge dello Stato. La legge dello Stato vale per tutti i cittadini e vale quindi anche ad esempio per gli avvocati. Tutto quello che è un esercizio non professionalmente attrezzato del proprio lavoro, quindi non lo so, un avvocato che fa scadere un termine, che si dimentica di fare un appello, sì, e che tecnicamente agisce in maniera non corretta, ecco, di tutto ciò è competente il giudice, il magistrato, il giudice civile, non può intervenire in questo il Consiglio dell'Ordine. La deontologia invece ha le proprie regole etiche, che sono la correttezza nei confronti del cliente, la correttezza nei rapporti con la stampa, ad esempio non abusare della stampa, ad esempio per farsi pubblicità ingannevole, la correttezza nei confronti dei magistrati e via discorrendo. Gli avvocati sono 230-240 mila, quindi tantissimi, moltissimi, e gli ordini sono 165. Ogni ordine naturalmente si muove sulla base di esposti. L'ordine non ha un potere di polizia, di indagine, quindi arriva un esposto all'ordine, l'ordine istruisce l'esposto, fa il procedimento disciplinare, che come tutti i procedimenti amministrativi, perché è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti, ovviamente deve rispettare. Sì, ma avvocato, questa è la procedura, ma Stefanoni, avvengono queste cose poi? Cioè, nel senso, la procedura, nel senso, non ci spieghi tutta la procedura, altrimenti. No, infatti ho finito, di spiegare la procedura. Questo per dire che anche nelle fasi disciplinari c'è l'esercizio del diritto alla difesa, con appunto tutta la procedura. Al termine, l'ordine prende una decisione che è di condanna o di assoluzione. La condanna, a seconda della gravità, ha vari gradi, va dall'avvertimento fino alla. Vabbè, però, ma vorrei chiedere. L'accusa, ma ne fate pochi di disciplinari. Ecco, questo bisognerebbe sapere in base a quali criteri. No, io non voglio citare sempre il caso che è diventato il caso scuola, no? Quello perché poi ti accusano di essere politicamente schierato, ma il caso dell'avvocato Previti, certo. Stefanoni, no? Che per tanti anni, pur condannato in via definitiva dalla Cassazione, è rimasto nell'ordine degli avvocati di Roma, no? Sì, è rimasto a lungo nonostante la sentenza passata in giudicato, è rimasto a lungo ancora iscritto. Quindi l'Ordine di Roma ha impiegato tanto, il Consiglio Nazionale Forense altrettanto, non da molto si è risolta la questione. Però ecco, va sottolineato come nelle more, no? Il tempo che è passato tra la Cassazione e l'effettiva cancellazione dall'albo di Previti è passato molto tempo, e nel frattempo un avvocato, parliamo più in generale, nelle condizioni simili può esercitare eventualmente. Non è esattamente così, nel senso che in realtà Previti era soggetto a sospensione cautelare nel frattempo da parte dell'ordine, ma io ripeto, è ovvio che se voi mi dite che il tale giudice ha fatto scarcerare 40 mafiosi perché ha ritardato a depositare la sentenza, è vero, lì c'è una carenza di attività, ma non possiamo dire che tutti i magistrati fanno scarcerare i mafiosi. No, no, ma questo, se noi andiamo a prendere l'esempio patologico o ritenuto tale, per dire, per trarre degli esempi, le dice, no, ma per trarre delle conclusioni, no, ma questo non lo vogliamo fare. E io però vorrei chiedere ad Amedeo Bianco, tra l'altro, partire magari da una vicenda di cronaca che è finita sui giornali in questi giorni, vale a dire l'ordine, e molti medici sono lamentati perché tramite Groupon, che tutti conoscono, venivano offerte delle prestazioni mediche a prezzi inferiori rispetto a quelli normali, no, se uno, presidente, va da un normale professionista. Questo perché vi inquieta, o se vi inquieta? Le motivazioni sono tutte pubbliche, nel senso che circa un mese e mezzo fa, su questa vicenda, seguendo vie e procedure del tutto istituzionali, abbiamo inviato un esposto all'antitrust, chiedendo all'antitrust di verificare la trasparenza, la veridicità del messaggio pubblicitario, se non avesse questo tipo di messaggio, perché è di questo che stiamo parlando, messaggio pubblicitario, non avesse in sé alcuni elementi, forti elementi di ingannevolezza. Così come abbiamo chiesto ai nuclei di ispezione delle ASL, che sono organi preposti al controllo di qualità e sicurezza delle attività sanitarie, di verificare se sussistevano tutti i criteri di sicurezza e qualità, visto che queste prestazioni venivano offerte a tariffe largamente al di sotto dei costi. Oggi però c'è un'intervista al quotidiano nazionale del neo ministro della salute Balduzzi, che dice nulla di male sulle sanità low cost, basta che rispettino le regole, e le regole vanno fatte rispettare dall'ordine. Beh, questo mi sembra una posizione assolutamente accettabile. Attenzione, non stiamo parlando di sanità low cost. La sanità low cost di cui parla il ministro Fazio non è Groupon. Balduzzi, perché non può esistere una sanità low cost che ha costi che sono inferiori a quelli di produzione. È cambiato il ministero però, presidente Balduzzi, siamo rimasti ancora a Fazio. È cambiato il ministro, certo. Il ministro Balduzzi. Il ministro Balduzzi, certo, ma attenzione, non stiamo parlando di una sanità low cost, questo che vorrei far capire. Qui siamo di fronte ad una campagna di carattere pubblicitario che ha un solo fine, non di quello di fornire prestazioni a bassissimo costo, ma quello di orientare la domanda, orientare la richiesta di prestazioni. Ecco, quindi, poi abbiamo chiesto ai NAS di verificare se effettivamente tutti i coupon che vengono acquisiti su internet hanno avuto un corrispettivo in prestazioni. Beh, qualche dato interessante sta già emergendo. Non da noi. Dai NASA. Io però vorrei chiedere, Franco Stefanoni, qual è l'accusa più seria, più incisiva, che c'è ovviamente contenuta nel libro, che tu fai per esempio all'Ordine degli Avvocati, che è qui rappresentato dall'avvocato Mascherini? Una, per esempio, è più che accusa, una considerazione che si può fare. È aggiornata in questo periodo, si è in attesa dell'approvazione della riforma dell'ordinamento forense, è molto tempo che se ne parla, è stata approvata in Senato e adesso aspetta il voto della Camera. Ecco, in questa riforma sono contenuti alcuni punti che per esempio sono in netto contrasto con quello che sta accadendo oggi, quello che è previsto dalla recente normativa di quest'estate fino alla legge di stabilità, e che sembra non andare molto d'accordo presumibilmente con quello che farà Monti. Mi riferisco per esempio a due punti. Un punto è il ritorno delle tariffe che gli avvocati hanno fortemente sostenuto, ritenendone necessarie. L'altro è un allargamento delle esclusive, dell'esclusiva della professione, nella consulenza legale, che è una parola che comprende tante cose. Sono due punti molto, come dire, contestati, perché gli avvocati difendono a spada tratta queste cose, ma mi sembra siano in contrasto con ciò che sta accadendo anche a livello politico dal punto di vista della liberalizzazione. E allora le 8:46 minuti. Avvocato Mascherin, aggiungendo ai punti cui faceva riferimento Franco Stefanoni, c'è anche la questione, molto spesso ci dicono come mai si è contro la pubblicità degli avvocati, che si legge su, oppure gli avvocati, quelli che offrono servizi a costo più basso. Insomma, ci sono ostracismi nei confronti di queste iniziative. Perché? Allora, io credo si debba partire da un punto che forse non è mai stato sufficientemente chiarito. Quando noi parliamo di diritto della difesa o diritto della salute, non parliamo di pentole o di alghe alla Vanna Marchi, parliamo di diritti costituzionalmente protetti e diritti fondamentali per una qualsiasi civiltà. Quindi non sono beni di consumo la salute, il diritto alla difesa, come l'istruzione, come il diritto all'informazione. Sono cose assolutamente diverse, quindi non essendo pentole, non essendo alghe alla Vanna Marchi, devono essere garantite nelle forme con cui vengono proposte al cittadino, perché sa, il medico che sbaglia l'intervento, l'avvocato che sbaglia la tecnica difensiva, rovina la vita. Ma questo è senza dubbio, cioè non è che io, però non è che io mi propongo, io Alessandro Milan, come avvocato, che non cosa che non sono, ecco, ma ci sono magari degli avvocati che dicono noi possiamo offrire la stessa prestazione a un più basso. Dottore, lei ha perfettamente ragione, infatti proprio per evitare che Alessandro Milan, che è un grandissimo giornalista, è vero, perché io la seguo e anche se ha qualche pregiudizio nei nostri confronti è molto bravo. Ecco, vede subito, mi fa un complimento e una stoccata, ma non è vera né la prima né la seconda. Il dottor Milan, il suo editore, voglio dire Confindustria, quindi sappiamo bene che lei deve in qualche maniera seguire la linea editoriale. Che lo fa, no, e lo guarda, fa benissimo. No, avvocato, non scenda su questi livelli, perché guardi, non tutti seguono la linea editoriale nel posto in cui lavorano, ma come è normale che sia, ma non tiri in ballo Confindustria, che non c'entra niente. Esattamente, e infatti quello che lei diceva, dottore, è perfetto. La consulenza a cui faceva riferimento il dottor Stefanoni, infatti noi diciamo la facciano i professionisti, la facciano gli avvocati per quel che riguarda un ramo, la facciano i commercialisti, i notai, proprio per evitare che chi non ha la preparazione tecnico-giuridica faccia danni, no? È quello che lei diceva, non è il dottor Milan che fa consulenza, invece adesso sì. Adesso il dottor Milan o chiunque altro soggetto può improvvisarsi consulente e questo ovviamente a danno evidentemente del cittadino, perché non è tecnicamente attrezzato a farlo. La pubblicità è una cosa, l'informazione sull'attività professionale è un'altra. Noi siamo assolutamente favorevoli, e lo prevediamo nel nostro codice deontologico, all'informazione corretta, quindi che materie tratto, qual è la mia struttura. E come faccio a farlo sapere? Cioè, se compro una pagina di pubblicità su un giornale per dire sono uno studio di avvocati, siamo qui, vi offriamo queste tariffe, per esempio, che male c'è? Cioè, se no come faccio? Guardi, l'attività informativa fatta in maniera dignitosa, quindi il giornale, la brochure, tutte queste forme assolutamente sono ammesse. Quello che noi non vogliamo, vede, la pubblicità è fatta per vendere, lei me lo insegna, no? È fatta per vendere, per cui per attrarre il consumatore a consumare un prodotto. Ecco, il diritto alla difesa, alla salute non sono prodotti da consumare, quindi assolutamente sì, a qualsiasi forma trasparente di informazione, anche con i giornali, anche con le brochure. Quello che noi non vogliamo, ma certo è nell'interesse del cittadino ovviamente, è che qualcuno venga attratto a consumare diritti come il diritto alla difesa oppure il diritto alla salute. Stefanoni, su questo aveva voglia di replicare. Sì, una precisazione. È il significato del decoro, no? In termini di pubblicità fatta dai professionisti, perché questo è un concetto che può essere esteso e è successo in passato che taluni ordini locali abbiano sanzionato, siano intervenuti su forma di promozione, ritenendola appunto contraria al decoro. Ora, il concetto di, che sia o meno decoroso una pubblicità è un po', come dire, così si presta più interpretazioni e qualche volta semplici quindi inserzioni che sembravano innocenti sono state prese di mira. Questo inibisce la libera concorrenza. Ecco, perché anche su questo, Presidente Bianco, cioè l'accusa, lo vogliamo ricordare, l'Ordine di Bologna ha, diciamo, ha processato tra virgolette 15 iscritti che hanno offerto su Groupon prestazioni, ma sono medici, cioè nel senso non è che sono dei ciarlatani che si sono spacciati per medici. Non è un attacco alla libera concorrenza, al libero mercato? No, non usiamo parole. No, adesso soprattutto molto, tra virgolette, ha processato, ha richiamato l'attenzione di questi colleghi ad un uso corretto della propria immagine e quindi e invitandoli soprattutto a prestare attenzione che la loro promozione dei servizi non ha contestato nulla e non ha sanzionato nessuno, non ha contestato le tariffe, ha contestato una sola cosa, che la promozione di questi servizi professionali, ripeto, a tariffe che sono non promozionali, sono tariffe ovviamente pubblicitarie, avvenisse in contesti non controllati, per esempio la promozione di un servizio, che so io, di visita cardiologica eccetera, potrebbe essere nel contesto, che so, di un apparecchio biomedicale, e questo francamente, come lei sa, non è consentito non tanto e non solo dalla deontologia, ma pone dei seri problemi, come dire, sul fronte della ma anche della difesa del consumatore, perché guardate che poi non è esattamente così come viene detto. Esistono forme, almeno sul, diciamo così, in questa brutta parola, nel mercato della salute, sappiamo molto bene che l'offerta spesso condiziona la domanda, e quindi come dire, l'attenzione, tutto si può dire meno che non ci sia, ma insomma abbiamo le città piene di cartelloni su via, andate su internet, quindi c'è già la pubblicità, è garantita la libertà, andate su internet e vedete, voglio dire, anche così un piccolo scempio. Ma cosa che io tra l'altro dico, io personalmente io non andrei mai a scegliere una prestazione sanitaria su internet. Non stiamo criminalizzando nessuno, però. L'ordine ha solo richiamato i colleghi, fate attenzione perché la vostra immagine entra in un veicolo di comunicazione pubblicitaria che può avere tutto, ecco. Tutto e di più, tutto, però tutto. Presidente, facciamo così, perché io ho un minuto e poi devo chiudere in maniera rigorosa. Il tema ovviamente è molto ampio, no? Poi abbiamo parlato in questo caso di ordine degli avvocati, che ringrazio, e ordine dei medici. C'è da dire che Stefanoni nel suo libro non usa mai la parola casta. Che è molto casta non c'è, perché? No, non c'è casta, io credo che sia una parola molto inflazionata, ormai si usa per tutto, per cui ho preferito evitarla. Anche se. Io farei un anche se. Cioè, diciamo, c'è un ordine, c'è una categoria che ha alcune caratteristiche che ricordano la casta. Che è, indovinate quale, che è la vituperata categoria dei notai. I notai, che adesso mi diranno. Vabbè, anche qui non sono notai. Presenti, però insomma ci sono connotati, ecco, di difesa, ecco, di categoria e di funzionamento. Meccanismo ordinistico che un po' ricordano quelle della casta. In ogni caso, io ringrazio tutti, l'avvocato Andrea Mascherini, il presidente Amedeo Bianco e Franco Stefanoni, di cui ricordo il libro edito da Chiare Lettere, I veri intoccabili. Sono 15 euro per 223 pagine. In ogni caso, se ci scrivete una mail a 24mattino@radio24.it, vi diamo tutti gli estremi del libro. Grazie davvero a tutti, da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni in redazione, a Peter Bescapè, il nostro alpino, in regia. La linea va a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domattina.